Vlog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Ecco, la chiameremo la salvatrice di Roma Nord. Ieri sera praticamente sono state terrorizzate non so quante persone nell'area, appunto, Roma Nord, Ponte Milvio, Mazzini, Prati e via dicendo, perché una mamma, non so come gli aveva girato, ha cominciato a mettere questo messaggio su WhatsApp mandandolo agli amici della figlia, che l'hanno mandato alle altre mamme e via dicendo. La fonte era certa, c'era un'altra mamma che lavorava al Ministero degli Interni, insomma, magari faceva le pulizie alle toilette, probabilmente aveva sentito delle voci, per cui erano soltanto parziali le informazioni che ci danno, perché, come accade sempre anche nel caso dei rettiliani e delle scie chimiche, c'è sempre qualcuno che tiene nascoste le verità. La verità è che la bomba nella metropolitana c'era, non erano dei coccetti di un narghilè che uno si era andato a fare una pompatina in un angolino e poi l'ha lasciato lì, via dicendo. Non era i pacchetti che stanno trovando ogni giorno, c'è sempre qualcuno che segnala in metropolitana qualche oggetto terroristico, poi magari è una saccata di vomito di un ubriaco, è una scatolina di mentine, come è accaduto. Ogni 10 minuti si fermano le metropolitane a Roma. Beh, questa mamma ha pensato bene di dire alla figlia e alle amiche della figlia: mi raccomando, non andate nei localini di Ponte Milvio, così salva anche la virtù e salvaguardia della tenuta etica delle figlie. Attenzione, questa voce che gira per la mamma che lavora al Ministero degli Interni è che ci sono delle bombe, vogliono colpire i ragazzi, quindi ragazzi tutti a casa. E la figlia risponde, l'amica della figlia: sì, non esco di casa, non esco di casa. Così abbiamo colpito esattamente due piccioni con una favola. A un certo punto di vista i figli se ne stanno a casa, le mamme protettive sono contente, tutti con una sana paura, comunque sono dei bravi ragazzi. Ecco, voi direte una cosa marginale. No, non è una cosa marginale, perché ieri veramente è stato creato un panico a livello interno, probabilmente soltanto su WhatsApp, ma quanti che mi hanno ascoltato in questo momento sanno che stanno girando anche delle voci incontrollate da parte di persone che invece che fare il loro quotidiano dovere pensano esattamente di fomentare, come se fosse un grande bar dello sport, solo che invece di parlare delle partite, degli arbitri cornuti, della corruzione delle società sportive, si parla dell'ISIS come se tutti improvvisamente fossero degli esperti. Quante voci state raccogliendo in questo momento? Quante incontrollate, prive di fondamento, senza nessuna base documentale, se ne girano e se ne dicono? Quanto avete orecchiato facendo la spesa al supermercato, aspettando l'autobus, aspettando le metropolitane, che non sono mai state tanto vuote? In questo momento, se uno volesse prendere i mezzi pubblici, sarebbe il momento adatto. Ci sono dei corridoi spettrali, sembra di essere nelle scene di Matrix in cui si passa dalla dimensione all'altra saltando dentro la metropolitana. 800240024. Oggi parleremo dell'inframondo che è nascosto fra la realtà e fra la supposizione. A tra poco. Melog. Cronache meridiane. Ragazzi, fate girare quest'audio a più persone che potete, perché ho appena chiamato che è quella che nell'audio parla con la madre di quella certa e mi ha appena detto che sono tutte stronzate, la madre e lei ci stanno andando di mezzo, è successo un casino perché questo audio ha fatto il giro di tutta Roma e lei comunque si è sentita una merda perché la madre di questa qua dice che è un'iperprotettiva e alla fine della telefonata le si è pure messa a ridere, però è stato interpretato male, questa ragazzina l'ha fatto girare a tutta Roma. Purtroppo ha creato un casino per niente perché mi ha detto che sono tutte stronzate, ora se ce la faccio mi faccio mandare un audio in cui lei dice, diciamo, smentisce tutto. Questo è uno dei messaggi di ritorno, perché ieri sera probabilmente molte persone non avevano niente di meglio da fare che scambiarsi i messaggi su WhatsApp, mentre gli attentati sono veramente, ma sono in Mali, sono territori lontani, in fondo non ci toccano. La madre, iperapprensiva, ha pensato bene di sostituirsi, non so a quale organismo dello Stato, a quale elemento di salvaguardia, della integrità dei propri ragazzi, vogliono colpire i giovani, può anche essere, ci sta anche. Abbiamo parlato di, per quanto possibile, certezze in questi giorni, perlomeno ci siamo rivolti a persone che hanno fonti certe, fonti documentate, hanno collazionato gli elementi che abbiamo a disposizione, quindi parlano con dei margini di plausibilità. Questa mattina invece diamo spazio alle voci incontrollate. Le avete sentite le voci incontrollate? Dove le avete ascoltate? Quali sono i luoghi in cui la gente chiacchiera di più dal fiato alla bocca, dice scemenze, stupidaggini, semina argomenti del tutto futili e fittizi, creando ancora più confusione e dando ancora più difficoltà alle persone che stanno per dovere istituzionale a salvaguardia, a tutela della nostra incolumità, con tutti i limiti che ci possono essere? State anche voi a guardare le pattuglie che presidiano le maggiori città d'Italia, come gli Umarell guardano i cantieri e dicono la loro rispetto a come si muove il braccio della ruspa, come stendono il manto d'asfalto. Perché io l'ho visti, questi signori guardano, ma cosa fanno? Con quel tipo di fucile non possono fare nulla. Parcheggiati così, cosa fanno? E figurati, soltanto in due davanti alla metropolitana, se vogliono entrano da quell'altra parte. E poi la solita ragione, non ho visto polizia da nessuna parte. Gli autobus non sono presidiati, le metropolitane non sono presidiate. E sì, basterebbe l'altro giorno che uno scendesse in piazza, non vado più al ristorante. Ecco, 800 24 0024. Anche voi date retta ai consigli dei consiglieri improvvisati che tutto sanno sul terrorismo e tutto sanno di come ci si comporta in caso di terrorismo, tanto che addirittura su YouTube si creano dei canali specializzati, come ci sono le ragazze che vi spiegano come pittarvi le unghie o acconciarvi i capelli o truccarvi gli occhi, sono quelli che vi spiegano come comportarsi in caso di attacco terroristico. Nel caso vi doveste ritrovare in mezzo a un attacco terroristico, dopo aver detto "maledetto shooter, ci hai portato sfiga", potete seguire le linee guida del Guardian, che ha scritto un articolo in merito ad altre varie guide linea che sono state scritte proprio per insegnare alle persone cosa fare nel caso si trovino durante un attacco terroristico. È ovviamente uno dei migliori consigli in assoluto dato da psicologi, esperti di balistica e Batman. E scappate, scappate e basta, non cercate di battere i terroristi. Sono armati, non cercate di placcarli, non cercate di nascondervi, addirittura non cercate di nascondervi sotto gli altri cadaveri fingendo di essere morti, che era la mia idea principale, mi è stata Ecco, chi avrà detto a questo ragazzetto questa mattina che le tecniche suggerite sono quelle di scappare, di non affrontare terroristi, di non cercare di nascondersi sotto i cadaveri? Già si immagina queste scene da film, da Walking Dead, di nugoli cadaveri che ci sono stati veramente, che è una realtà che veramente abbiamo toccato. Guardate con attenzione quelle erano ieri le pagine dei giornali, ci sono le foto, le immagini delle persone che hanno lasciato veramente la vita in questa guerra. Riflettete su questo, ma non pensate di sostituirvi alle persone che in realtà di mestiere fanno proprio questo tipo di attività. Allora, quali sono i luoghi, secondo le voci che avete ascoltato, che sono obiettivi sensibili? E quali sono le modalità, le tecniche di attacco, di difesa? Cosa si dice questa mattina mentre si prende il caffè riguardo a quello che sta accadendo? Francesco, buongiorno. Salve, io ascolto la trasmissione da pochi minuti, quindi ho capito che il tema più o meno qual è. Io voglio solo raccontare che ieri sono stato accompagnato, sono un insegnante di scuola superiore e ieri ho accompagnato delle classi, siamo della Romagna, qui in provincia di Rimini. Siamo andati all'EICMA, alla Fiera del Motociclo, fiera storica a Milano. Cioè era una gita scolastica, una gita di istruzione. Sì, una gita scolastica per andare di settore, cioè andare a visitare questa fiera enorme. La fiera del motociclo. Del motociclo, lei come si chiama. E niente, quindi sa, con quello che è successo ci aspettavamo dei controlli. Per lei è un obiettivo sensibile, potrebbe essere che la fiera del motociclo potrebbe essere colpita. Fiera mondiale, insomma, certo. Folle incredibili, gente comune, cioè scolaresca ed altro. E quindi mi aspettavo, anche io come, insomma, come insegnante, cioè, quindi sai, abbiamo in carico questi ragazzi, le famiglie ce li affidano. Quindi ma ne avete parlato a scuola fra i vostri colleghi prima di andare, di eventuali pericoli? No, perché era stato già organizzato, quindi all'ultimo momento ci siamo, come dire, un po' guardati in faccia per stare un po' più attenti del solito, però. Ma c'è stato un fuggi-fuggi, no? Cioè hanno scelto il più coraggioso per accompagnare i ragazzi, altri hanno detto magari... No, assolutamente, questo problema non ce lo siamo posti, anche perché poi cioè, il panico, cioè non possiamo fomentare da queste minacce. No, siamo andati tranquilli, però certo abbiamo pensato che anche quello era un luogo che poteva essere... Certo, la fiera del motociclo potrebbe accadere, sì, quindi... Sì. Niente, poi siamo andati lì e io ero stato circa 4 anni fa, già un'altra volta, sempre con la stessa modalità, accompagnatore di scuola. Non abbiamo notato nessun controllo in più, quindi riferendoci all'Expo, che cioè, è stata chiusa da poco, dove c'erano dei tunnel per controllare. E lei che tipo di consiglio ha dato ai ragazzi per stare attenti? Ai ragazzi ha detto di stare allerta, insomma di essere un po' più svegli, quindi guardare. Ma se lo vedono che fanno? Ah, che fanno? Io quello di stare uniti, cioè potevamo di stare lì e quindi sperare che non succedesse nulla, perché non era, come dire, il nostro compito era quello di comportarci, di essere puntuali, di guardare, di comportarci come in un ambiente scolastico, ma certo la sicurezza non era una cosa che riguardava. Quindi non ha visto sufficiente sicurezza visibile, perché poi ci potrebbero essere anche delle persone che si occupano della sicurezza e non sono poi così visibili, come suggerirebbe comunque un'altra ipotesi. Però io non voglio fare l'esperto, non voglio sostituirmi ai tanti esperti che in questa mattina mi chiameranno e mi diranno il loro punto di vista, quello che la gente non sa, quello che le autorità non dicono, quello che le persone informate invece sanno e dicono. Stefano, buongiorno. Buongiorno, chiamo da Busto Arsizio, come dicevo alla centralinista, la sera stessa a me è capitato di ricevere subito una bella catena di Sant'Antonio sul virus informatico creato apposta per l'occasione, di spegnere i computer e tante belle cose. Esattamente cosa diceva questo importante avviso? Attenzione, ci sono i virus dell'ISIS nei computer. Sì, c'è un virus in arrivo, se vi arriva la mail che dice pregate per la Francia o qualcosa del genere, attenzione che contiene un virus pericolosissimo, vi cancella tutto, spegnete i computer, staccate la spina e quant'altro. E tutti hanno naturalmente ripostato e diffuso questo messaggio? Non ne ho idea, io ho subito postato la mia dicendo vabbè ragazzi, se proprio avete questi problemi mettetevi un Linux su una chiavetta e dormite sonni tranquilli. Non ci vuole neanche sta gran scienza oggi ad usarlo. Certo, con Linux si sa. E poi, oltretutto, anche sentendo queste notizie di psicosi, eccetera, inviterei tanta gente a fare come ho fatto io per lavoro tanti anni fa, andare una ventina circa, andare a fare un giro a Tel Aviv, dove la polizia agli angoli delle strade, o meglio l'esercito, con il caricatore ben visibile sul fucile, ormai all'ordine del giorno. Poi lei ci sta dando un consiglio a questo punto, vede che anche lei dà un consiglio. Lei suggerisce di fare un viaggio di istruzione a Tel Aviv, dove si vede quotidianamente una situazione di allerta, e vedere come si comportano a Tel Aviv. Può camminare tranquilli per strada, o almeno 20 anni fa si poteva, adesso non so se la situazione sia cambiata, però ultimamente a Milano c'era una fiera di tessile, l'ITMA, e c'erano degli israeliani qua tranquillamente che vivevano la loro vita di lavoro. Che loro sono abituati a Tel Aviv, che girano con i caricatori. Va bene, altro consiglio ottimo di Stefano da Milano. Buongiorno Nicoletti. No, stiamo arricchendo il nostro carnet di cose che non sapevamo. Stefano da Milano, buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, io sono il titolare di un piccolissimo teatro a Milano e il giorno dopo la vicenda del Bataclan, alla fine dello spettacolo, uno spettatore uscendo ha incontrato una persona e mi ha raccontato questo episodio, che questa persona era un signore arabo, a detta sua, che gli chiedeva se l'indomani ci sarebbe stato lo spettacolo. Beh, era un appassionato di teatro. Sì, assolutamente, ha chiesto l'orario, poi ha chiesto se ci fossero anche donne, dopodiché si è segnato su un fogliettino l'orario, la via e tutto quanto. E questo spettatore è tornato molto spaventato da me a raccontarmi questo episodio. Io ho pensato due cose. questo mio spettatore evidentemente era molto influenzato da quello che era successo al Bataclan, era sicuramente spaventato, probabilmente il signore non era neanche arabo, magari era solo un po' scuro, diverso di carnagione. Dall'altro, può essere di Salerno, non so, una cosa... può essere, con quei tratti meridionali un po' che assomigliano. Tarantino, magari, a un commercialista di Taranto che passava lì e dice: voglio andare a teatro, sono a Milano in trasferta. Assolutamente. Dall'altra parte, e chiede se ci sono donne, magari... giustamente, perché è solo in trasferta, dice: se vado, ho che ci sia anche il companatico. Che questa persona magari invece fosse un arabo e magari qualcuno adesso si sta divertendo magari a spaventare. Guardi, in vediamo, questo modo. Siccome il suo all'inizio è una matassa interessante, qualcun altro ha avuto notizie di questo signore arabo che chiede informazioni nei luoghi frequentati di spettacolo e chiede se ci sono donne e prende appunti? Potrebbe essere anche questa una pista. Nicola. Allora, buongiorno. Ah, scusi Nicola, fra parentesi, oggi dei giornalisti, pare il Corriere della Sera, sono messi un burka e una kefia e sono andati in giro per strada a Milano e tutti hanno detto: sporchi terroristi, andatevene. E loro hanno fatto un bel pezzo, hanno svoltato la giornata. Sempre meglio di lavorare. Prego, Nicola. No, ma per carità, a me sembra una grande stupidata questa che hanno fatto questi giornalisti, no? Cioè, sì, questo racconta prima di tutto il grande vuoto, sia culturale che legato alla comunicazione, di quest'ultimo decennio in particolare. Perché non è che dopo la strage di Piazza Fontana la gente non avesse paura e non si fossero create delle psicosi, ovviamente, ma noi stiamo vivendo veramente una situazione così drammatica in un momento di vuoto siderale. Però mi si rende conto che la differenza rispetto a quell'anno e quel 2 agosto, che ricordo perfettamente come fosse adesso, che oggi abbiamo dei mezzi di diffusione comunque della cazzata, tra virgolette, formidabili, come pure della psicosi, della paura, dell'irrazionalità. Allora si stava attaccati alla radio, perché c'erano i telegiornali canonici alle ore canoniche, e si cercava il giorno dopo vedere quello che c'era sui giornali. Oggi a tempo reale, come la mamma protettiva che abbiamo sentito all'inizio della trasmissione, chiunque può diventare fonte primaria di informazione e paradossalmente, come lei mi sta facendo notare, ha la stessa attendibilità se il giornalismo è la fancazzola di andare in giro vestiti con il paramento orientale e vedere se la gente poi rimane male. Chiaro, vai davanti a una povera signora massaia con un burka e quella rimane un attimo interdetta, ti siedi in metropolitana coperta da testa e piedi con il burka, al sedile vicino a te può essere che nessuno ci sia seduto, ma esattamente noi oggi di questo stiamo parlando, stiamo cercando se possibile di mettere un seme di saggezza che non è il possesso della verità, avere un atteggiamento se possibile equilibrato di fronte a quello che sta accadendo, non lasciarsi prendere dalla svoglia, dalla smana di esserci a tutti i costi e quindi dire a tutti i costi la propria. Fra un istante ci risentiamo. Anima, miglior gestore fondi Italia Big 2015 secondo l'Istituto Tedesco Qualità e Finanza. Vi presenta Melog. Cronache meridiane. (800) 24 0024, parliamo di voci incontrollate, quando l'informazione in realtà può apparentemente presentare delle lacune, ma perché? Perché siamo abituati all'iperconnessione costante totale, non abbiamo mai abbastanza sufficienti elementi perché possiamo sentirci rassicurati. Molti mi stanno scrivendo il 2 agosto, c'entra il 2 agosto con Piazza Fontana, l'agosto chiaramente Bologna, si parla di treni, si parla di stazioni, e quella più legata emotivamente a di stragi, ahimè, terribilmente segnate nella nostra memoria, legata a quello che sta accadendo, proprio perché era legata a una stazione, legata a qualcosa che passava su rotaie, parlando di metropolitana. Elena, buongiorno. Buongiorno, niente, mi è andato un po' sangue la testa perché siamo nel 2015 e non mi è piaciuta la sua frase, la povera massaia. E allora cosa fa? È diventata la sindacalista, diciamo, delle massaie vilipese. Sono acculturate magari più delle persone. Beh, che lei è la coda di paglia, non ho mai detto che la massaia in sé sia ignorante. La condizio della massaia nel luogo comune che cavalchiamo tutti, e di luoghi comuni. Massaia, la casalinga. Se massaia casalinga. Perché queste persone magari sono, come ripeto, sono più acculturate e stanno più attente essendo a casa di certe persone. Allora ci dia la sua lettura, visto che acculturato è un brutto termine, non lo userei molto, perché proprio è un termine di chi in realtà insegue la cultura come una mera chimera. Ma mi dica, dal suo punto di vista di persona che si informa a questo punto, qual è la sua percezione e quali sarebbero le cose da fare? Niente, le cose da fare sarebbero molte. Comunque non si deve fare del terrorismo, ovviamente, questo è ovvio, e ci sono sempre state queste cose, adesso forse un po' di più perché con i mezzi di comunicazione le persone sanno più cose, no? Non crede? Ma lei è convinta che ci sono delle cose che non ci dicono, che non si sappiano? Perché, vede, ah beh, sicuramente. E una quale potrebbe essere, ad esempio? Quelle che sanno e che non dicono nell'ambito della politica, no? Ma nell'ambito di quello che stiamo vivendo noi, la paura di andare per strada, lei quando andrà, non voglio toccare dei punti, la sua sensibilità, ma lei quando andrà a comprare i ravanelli al mercato si guarderà intorno, vede persone sospette? Al mercato non ci vado mai, intanto non è una buona massaia. Vado al supermercato, non è una buona massaia. Guardo intorno solo alle cose che devo comprare. La brava massaia va dove ci sono gli ortolani che hanno le primizie. Ma non è detto, perché la brava massaia può anche essere che va al supermercato e non al mercato. Vabbè, è una massaia che diciamo tratta in maniera non professionale il suo ruolo di massaia, subisce il supermercato quando dovrebbe andare a cercare la primizia. Ma ognuno ha il suo punto di vista, questo è il mio. Carlo, buongiorno. Buongiorno, allora io volevo rifarmi appena ricordato quel triste evento del 2 agosto. Sì. Ecco, partirei da lì, che è comunque una tragedia, una strage, però io all'epoca comunque ero in servizio nell'arma dei carabinieri. Lei si ricorda che quel periodo c'era la psicosi di andare nei treni, però non c'era Facebook e non c'era internet che la gente diceva a ogni angolo, semplicemente la gente temeva andare nel treno, era un periodo di forti stragi, i treni sono stati colpiti. Io il periodo dell'Italicus ero un bambino, dovevo andare a Padova da mio fratello e quel treno l'ho perso con mia madre. Pensi. Quindi il discorso qual è? È che indubbiamente la psicosi è la stessa, però confrontando diciamo gli attentatori di allora e di oggi posso esprimere un pensiero che penso che sia un po' uniforme. All'epoca c'era comunque un'ideologia, sbagliavano, per carità di Dio, io l'ho combattuta, per cui non è che posso mai parlarne favorevolmente. Oggi questi sono soltanto infami, perché portano soltanto la guerra che loro si inventano. Vabbè, dal loro punto di vista sono convinti di fare no, il massimo. No, non sono convinti, l'abbiamo appena scoperto l'altro ieri, sono dei drogati che pieni di anfetamine e cose del genere, che poi... questo è un altro elemento interessante, poi che aggiunge qualcosa al dibattito. Sono drogati, quindi non sono motivati profondamente. Certo, sono comunque pilotati, questo è scontato. Ora, tornando ma chi è secondo lei chi li pilota a naso? Chi potrebbe essere? Che li pilota in qualche maniera? Personalmente parlando, io ho sempre pensato a una piramide sottostante al mondo proprio, cioè una piramide di pochissime persone che pilota l'America, la Russia e combinano il tutto. Mi verrebbe da pensare che gli unici che ci guadagnano, indubbiamente, parliamoci chiaro, sono i venditori di armi. È loro che hanno questi prodotti. Quindi un grande complotto internazionale che si nasconde. È assolutamente, anche perché hanno... Senti, ma lei leggo dalla scheda, familiarmente ha una situazione ancora più rischiosa rispetto a altri. Capisce? No. Certo, perché? Certo, vabbè, lo racconti. Sua moglie cosa... Mia moglie lavora in un punto strategico preso di mira giornalmente da questi personaggi. Mia moglie lavora al Vaticano. Quindi ogni giorno quando sua moglie va a lavorare, quali consigli dà a sua moglie? Quali consigli? No, da ex carabiniere ne saprà un po' più di una persona normale. Io infatti do dei consigli. Adesso, per assurdo che sia, mi sento un po' più legittimato, perché io questo discorso glielo faccio. Lei lavora da più o meno dal 2009, quindi con l'avvenirsi, con il susseguirsi di queste informazioni, i vari attentati, io più volte ho provato a dire attenta, comportati così. Ma che tipo di attenzione può avere? No, adesso mi interessa sapere. Faccio un esempio. Intanto, le faccio un esempio per quello che riguarda intanto il panico, che indubbiamente quello si crea. però in un attentato, per esempio, gli ho detto l'ultima volta, se scoppia qualche cosa in metropolitana, cerca di non farti, e fortunatamente riesci a esserne illesa, aspetta, non farti prendere dal panico, lei è piccolina, per questo non ti buttare nella massa, là c'è il rischio che ti calpestano, c'hai sempre l'acqua, metti l'acqua nella sciarpa e mettila in faccia, così per i gas, quello per i gas, per il fumo, per la puliggine, per tutto quello che può, perché gira sempre con la bottiglietta d'acqua sua moglie, come certo, molte signore, sì quindi certo. Mettere la sciarpa nell'acqua e mettersi la l'acqua, sciarpa la metti e intanto tamponi, cercare di stare sempre attenti. La Spagna ci insegna che quando è stato fatto l'attentato la gente è scappata, ce n'era un'altra di bomba là e praticamente sono rimasti incastrati. Quindi non fuggire verso l'uscita, non fuggire verso l'uscita. Non subito, non farci prendere dal panico, non subito, tanto comunque sia, se sparano o se esplodono è una. Ma fingersi morta, prima il suo collega, cioè sì, l'altro diceva. Sì, anche quello, come no? Quello però fingersi morta in quei contesti, ma come fai? Era uno come si mette, morto come? Cioè, morto. Appunto, non lo puoi. A faccia terra o a faccia alta? Sempre faccia terra sarebbe il caso. Però uno non vede poi alle spalle chi viene. Purtroppo lì uno ci si rimette al destino e a quello che in quel momento purtroppo la fortuna. No, però è stato utile, parlare è stato utile perché tutto sommato con la saggezza comunque di una persona che ha conosciuto, ha avuto un suo addestramento, anche il consiglio che si può dare alla moglie può essere in questo caso, in una situazione drammatica, fatalmente utile a salvarsi. Questa della sciarpa è una cosa che non sapevamo. La ringrazio, sentiamo fra un istante. Melog, cronache meridiane. Pensate ad un attentatore dell'ISIS a Roma. Decide di farsi esplodere e va alla metro A. Trova sicuramente chiuso per sciopero ed è costretto a desistere. Aspetta un autobus e dopo 2 ore di attesa sale, ma è talmente pieno che non riesce ad attivare la cintura. Intanto gli rubano portafogli e innesco. Scende esausto e decide di prendere un taxi per andare alla metro B. Il tassista gli fa fare 15 volte il giro del raccordo con qualche punta in Abruzzo per aumentare il tassametro. Al momento di pagare non ha più il portafogli e viene massacrato da Uzulu, proprietario della cooperativa di radiotaxi chiamata Himmler. Dopo avergli tatuato in fronte una svastica il nome Mustafa, lo abbandonano in una discarica vicino Pomezia. Riuscito miracolosamente a sopravvivere dall'assalto della nuova razza di topi ippopotamo, esce da un fusto alla diossina dove si è rifugiato e siede a riposare sulle scale di una chiesa dove il buon parroco Don Arnaldo, necropedofilo, lo porta in sagrestia e abusa di lui per un semestre. Riesce a scappare a piedi, ma viene travolto sulla pontina da un noto avvocato cocainomane detto Ercrema, che lo seppellisce nella sua villa di Zagarolo. E lì, finalmente, riposa in pace. 800240024, mi scrive un ascoltatore, quando prendi per il culo i tuoi poveri ascoltatori sputi nel piatto dove mangi, vai a lavorare veramente. Io non sto prendendo per il culo nessuno, sto esattamente facendo un'operazione di valore sociologico e analitico, perché stiamo cercando di cogliere quelli che sono dei sensi che circolano nell'aria. Ieri abbiamo parlato di come cambia la vostra vita in occasione, diciamo, delle notizie su probabili attentati terroristici. Oggi piene pagine di giornale, Repubblica ci mette 2 pagine, hanno fatto anche un sondaggio, esattamente come sono cambiate le abitudini delle persone. Oggi stiamo facendo l'analisi della reazione scomposta, irrazionale. È giusto che le persone dicano quello che pensano, è giusto che il signore dica che consiglia alla moglie di mettere la sciarpa con l'acqua, che la signora dica che ha paura di guardare in faccia la persona vicino, della leggenda del signore arabo che chiede al teatro se ci sono donne e via dicendo, come pure questo che avete sentito. Abbiamo chiesto questa mattina al nostro caro amico e stupenda voce del doppiaggio italiano Cristian Ianzante, ci legge per favore questo testo, ce l'ha letto al telefono. Questa è una cosa, sta girando nei social network, qualcuno anche su questo ha trovato una maniera di aggiungere una sorta di fanta supercazzola a quello che già viene preso sul serio, e supercazzola ormai è entrata nel vocabolario Zingarelli come parola ufficiale della nostra bella lingua italiana, quindi la uso con grande tranquillità. Livio, buongiorno. Salve a tutti, io volevo fare solamente un'osservazione. Nessuno in questi giorni, trattando il discorso terrorismo legato all'islamismo, non ha tenuto conto di una particolare situazione che per esempio abbiamo noi qui in Sicilia, a Mazara del Vallo. Io chiamo dall'altro lato della Sicilia, da Catania. Però se non lei è lontano da Mazara del Vallo in questo momento. Sì, però quello che voglio dire, se non sbaglio, la comunità di Mazara del Vallo ha superato come numero di musulmani e di persone che provengono dal Nord Africa la popolazione di siciliani, ecco. Però noi da siciliani sinceramente non la vediamo in una maniera diversa, forse perché conquistati storicamente da tutte le razze. Allora, sono passati tanti secoli. No, dica, ci dia delle informazioni concrete. Questa è la mattina in cui le persone che sanno devono parlare. Mi chiedo, allora noi siciliani, se consideriamo una situazione del genere come quella di Mazara del Vallo, cosa dovremmo fare? Scappar via o cosa? Ecco, Si domanda, Livio, come mai nessuno parla della comunità di Mazara del Vallo, che bisognerebbe invece, secondo lei, stare più attenti a questa comunità. Qual è il problema? Perché noi non abbiamo mai avuto problemi con la cultura araba, sino a quando si rifà a determinati limiti. Facciamo analisi di tipo storico, in questo momento stiamo parlando di cruda attualità. Lei ci ha dato un'informazione. Noi non abbiamo paura, ecco, questo voglio dire. Guardi, che voi non avete paura, lo prova anche il fatto che in questa documentazione che abbiamo a questa mattina raccolto c'è proprio la documentazione di alcuni suoi conterranei che così loro hanno reagito, e questo è stato il segnale che hanno mandato nei confronti del panico diffuso. Hanno simulato una sorta di dichiarazione con doppiaggio in siciliano, lei quindi potrà aiutarmi nella traduzione, di un possibile combattente dell'ISIS. Bastardone italiani, bastardone. Come potete vedere, siamo già arrivati in Sicilia, a Catania. Vi scippiamo a testa come masculini. Per chi fa di troppo budello. Per chi va spacchiato di troppo assai. Ma ora basta, finiamo la festa. Scusate, hai un po' di tussi che c'hai anfruttato. Adesso sullo scatarro della dichiarazione ci fermiamo. Silvano, buongiorno. Buongiorno, io mi occupo di consulenza aziendale da tanti anni, sono un dirigente in pensione, però sono il braccio operativo delle aziende e mi riscontro nelle vostre trasmissioni, sono spesso in macchina, faccio 5.000 chilometri. I nostri servizi segreti, le nostre forze, di queste cose erano completamente a conoscenza di tutto. Il motivo, qualcuno mi deve spiegare perché le parti politiche o chi aveva la possibilità di decidere non ha fatto niente. E la mia domanda è solo questa. Ecco, quanto questa domanda è appoggiata e corroborata dalla sua esperienza aziendale, cosa faceva nelle aziende per avere questa sorta di perspicace intuizione? Esatto, io entro nelle aziende e metto in ordine un po' tutto ciò che è pratico, tutto ciò che è operativo però, e poi parlo con gli amministratori delegati che fanno un altro lavoro. Lei è il Mr. Wolf delle aziende, risolve problemi? No. Ma sì, io faccio nel mio settore naturalmente, e ce ne sono tanti come me, attenzione, c'è dall'elettricista, l'idraulico, la formazione personale, la manutenzione. Però voi avete un occhio sulla realtà, diciamo, più addestrato a cogliere gli aspetti ambigui rispetto agli altri. Esatto, e allora anche nell'esercito funziona così, i servizi segreti sono a conoscenza di tutte queste cose, bene o male non lo possono confermare loro. Come facciamo? Ma lei su quale basi, diciamo, documentali afferma questa cosa? Nella mia esperienza. No, lo dica tranquillamente, ormai in pensione non rischia, penso. Allora, le posso garantire che ci sono personaggi che lavorano nell'ambito delle forze armate che comunicano attraverso i dati che ricevono per i satelliti o per altre cose, comunicano alle persone interessate che ci sono delle situazioni anomale. Ma lei ha conosciuto qualcuno, ha avuto qualche prova di questa comunicazione satellitare? Diciamo di sì, ecco. lo dica, parla tutti, abbiate il coraggio. Siamo tutti completamente a conoscenza. Sembrate delle giovani parrocchiane che si confessano dal parroco. Dite tutto. Non è una fantasia. Lei provi un attimo a richiedere a qualcuno che è operativo. Ma io non li conosco, dove li vado a cercare io? Le confermeranno che sì, ma mi scusi, Silvano, un normale cittadino va a trovare un agente segreto operativo, mica ce l'hanno scritto in faccia. No, ma ci sono persone che sono a conoscenza di queste cose, come ad esempio siamo tutti noi cittadini italiani, siamo a conoscenza di quello che combinano i nostri, quelli che prendono le tangenti, però non possiamo dirlo, ma ne siamo lei è a conoscenza, io onestamente non ho mai visto tutti uno prendere. Guardi, le posso garantire, tutti, la segretaria, il fattorino, l'autista. Ma questa è la sua esperienza aziendale, le ha dato questa. Ma è una verità, lei va in spiaggia, parla con l'autista del sindaco, dall'assessore, e lei viene a conoscenza di tutte queste cose. Scusi, io vivo, non lo so, forse vivo una realtà diversa. No, lei, io invidio la sua postale di aver avuto queste informazioni. Avesse avute io, oggi avrei il Pulitzer. No, io mi dedico al mio lavoro esclusivamente, però quando sono in giro mi sento dire, ah guarda, se vuoi andare dentro, ieri ero nel Veneto, se ti vuoi entrare dentro lì, guardate che devi fare così, se no non ti passi, e così via. Poi ci sono persone anche serie. Ma vanno anche un po' provate le cose, non basta, se la diceria diventasse certo, legge. No, le ho anche provate, ho avuto anche occasione di andare a Roma, sono anche a Roma spesso. Ha viaggiato. Faccio 5.000 km al mese. Sono tanti. Però la verità è questa, c'è il braccio e la mente, se il braccio e la mente non si mettono d'accordo i risultati non avvengono, c'è un fallimento totale nelle cose, anche nelle aziende è la cosa banale, e invece nella politica non è così, cioè approfondite seriamente questo discorso e scoprirete, fate parlare chi opera nel mondo in questo caso. C'era un famoso apologo che metteva poi d'accordo tutti dicendo il braccio e la mente non andare d'accordo, comunque questa fetta di verità ci conforta e ci corrobora, a lunedì.